Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi. Benvenuti o benvenuto a Mebius, ciao Chiara. Eccoci qua, ciao a tutti. Incominceremo con, potrebbe essere pronunciato Jean Clock come se fosse un cantante rock, mentre invece è il gene e riguarda gli uccelli che migrano. E poi parliamo di quanto siamo imperfetti, noi esseri umani. E infine ritorneremo al nostro concorso, inventatevi una nuova malattia. Si chiama videocondria, ma ne parleremo più avanti. Partiamo. Leggo qui, Chiara, una cifra strepitosa, però ecco, non lo so, sono tanti o sono pochi? Quanti sono? Sono 2 miliardi di uccelli di centinaia di specie, quindi proprio variegati anche nella forma, forma e nei colori. Colori. Ecco, che sono gli uccelli che si spostano. Migrano. Che migrano. Da un posto all'altro del pianeta. Ogni anno. 2 miliardi è un numero elevato, però forse non sono neanche, saranno molti di più. Adesso andiamo a capirlo. Ecco, andiamo a capirlo insieme a Nicola Saino. Intanto, buonasera professore. Buonasera. Benvenuto. Lei è ordinario di ecologia all'Università degli Studi di Milano ed ha coordinato uno studio che in questi giorni, insomma, è stato pubblicato anche su una prestigiosa rivista, Molecular Ecology, in cui sembrerebbe che l'orologio genetico e poi in particolare dei geni, insomma, regolino le migrazioni degli uccelli. Questa, insomma, è anche un po' una novità. Le chiediamo di raccontarci come avviene e poi volevamo sapere questo dato interessante su quanti sono gli uccelli. 2 miliardi sono tanti? Sono tanti o pochi? Ecco, allora partiamo da questo. Ovviamente in senso assoluto sono tanti. Dobbiamo anche però pensare che si parla di tutti gli uccelli che annualmente compiono questo spostamento pendolare dall'Eurasia fino all'Africa e ritorno, quindi se le aree interessate sono enormi. 2 miliardi è una stima ovviamente, ma è una stima verosimile. C'è quindi una grande biomassa che si sposta e c'è anche, come sottolineavate voi, una grande varietà di specie. Molti sono piccoli uccelli passeriformi, ma ci sono ovviamente anche dei grandi migratori, le cicogne o tante specie di falconiformi, quindi di falchi. Sorprende sempre pensare che un passerotto piccolo riesca a fare migliaia di chilometri, sembra incredibile, però lo fanno. Guardi, questo ovviamente, nonostante noi ci occupiamo di queste cose, sorprende sistematicamente anche noi. Queste le migrazioni sono studiate in condizioni ottimali nelle piccole isole, ad esempio del mare Mediterraneo, dove questi migratori sostano per rifocillarsi, per bere. Il pit stop. Esattamente, fanno dei pit stop perché lo spostamento è molto impegnativo. Ci sono specie di pochi grammi che riescono a migrare da sud del Sahara fino alle nostre latitudini. Senta, un dato che magari sarà un po' triste, ma voi probabilmente lo conoscete. Durante queste migrazioni ci sono perdite, le penne? Sono abbastanza rilevanti oppure no? Guardi, metterci le penne ovviamente non sarà una locuzione normale. Purtroppo no. Sì, è ovviamente molto estremamente difficile capire qual è la frazione di individui che muore, ma sicuramente la migrazione, soprattutto per le piccole specie, è un momento in cui noi diciamo in senso tecnico la selezione è molto intensa, intensa. In cui i peggiori effettivamente non ce la fanno. Soccombono. Resta di fatto comunque che la migrazione, per quanto sia un fenomeno noto, possiamo dire da migliaia di anni, è probabilmente uno dei fenomeni meno conosciuti, perché le difficoltà logistiche, tecniche, tecnologiche sono per studiarli e osservarli sono tante. Però questo importante studio che voi avete fatto, di cui accennavo prima, si concentra proprio su due specie che sono proprio due uccelli di dimensioni anche ridotte, insomma due passeriformi, l'usignolo e lo stiaccino. Forse magari lo stiaccino non tutti lo conoscono. L'usignolo ovviamente popola anche la letteratura. No, lo stiaccino no. Lo stiaccino è un'altra specie tutto sommato affine all'usignolo. In realtà il nostro studio ha riguardato diverse specie. Per le due specie che lei ha citato, cioè l'usignolo e lo stiaccino, emerge in maniera più chiara questa associazione fra, diciamo, l'assetto genetico dei singoli individui e i tempi della loro migrazione. L'assetto genetico in particolare ha un gene, che è un gene molto conservato negli organismi viventi, che è uno dei geni che dettano la nostra capacità di rispondere noi diciamo al fotoperiodo, cioè alle variazioni che si osservano nel corso dell'anno nella durata relativa del dì e della notte. Quindi lei ha detto la nostra capacità, anche noi che non anche siamo umana, dei passeriformi, è una cosa che hanno gli esseri viventi. No, certamente noi non siamo passeriformi, ma è una questa capacità di rispondere al fotoperiodo è una cosa che gli organismi hanno conservato, e dal punto di vista del biologo dell'evoluzione questo è un adattamento molto chiaro a un'esigenza fondamentale, cioè quella di sincronizzare le proprie attività, cioè le attività degli organismi, al variare delle condizioni ecologiche. Okay. Il fotoperiodo, la variazione del fotoperiodo, proprio in questi giorni la variazione della durata del dì e della notte è massima in questo periodo dell'anno, certo, cioè all'inizio della primavera noi lo percepiamo quasi di giorno in giorno, il fatto che come diciamo le, noi, giornate, si allunghino. Sì, è un effetto netto. E questo ovviamente è un segnale che suggerisce di prepararsi a quello che sarà. Gli animali si devono preparare, chi a migrare, chi a riprodursi, chi a migrare e poi riprodursi e così via. E questo meccanismo sarebbe regolato da questo gene clock, cioè il gene orologio. Esattamente, questo gene clock è uno dei geni coinvolti. Questo aspetto del controllo genetico in realtà dei tempi della migrazione è un argomento molto delicato anche per le prospettive di conservazione di queste specie, ma quello che è importante capire è che immaginiamo un migratore, uno dei nostri migratori, un usignolo che va in Africa a passare l'inverno. A un certo punto, dal bel mezzo dell'Africa, l'usignolo deve decidere, senza avere nessuna indicazione ovviamente di quelle che sono le condizioni, di come si stanno modificando stagionalmente le condizioni in Europa, deve decidere di abbandonare l'Africa e di tornare su, perché da lì a qualche mese o a molte settimane si daranno le condizioni ideali per riprodursi. Ovviamente l'usignolo che sta in Africa non ha nessun indizio diretto di quello che sta succedendo in Africa, magari si tratta di un usignolo che ha appena compiuto 6 mesi di vita, quindi nato la primavera prima, che non ha nessuna esperienza precedente di migrazione. Ci deve essere qualcosa che gli detta il fatto che è il momento di migrare, ma questo qualcosa deve essere indipendente dalle condizioni. Una capacità innata. Una capacità innata di previsione di come cambieranno le condizioni a migliaia di chilometri di distanza da lì a qualche mese. Quindi è fondamentale avere degli orologi ambientali che l'organismo legge grazie a questi geni clock, che predicono il variare stagionale delle condizioni. Qui però, Saino, viene fuori un problema, no? Anche Chiara. Sì, la scoperta è importante, ma anche un po' preoccupante, professore. Sì, è preoccupante in un contesto di cambiamenti climatici. Probabilmente ormai è di dominio pubblico il fatto che i cittadini apprezzano e sanno che l'andamento delle stagioni sta cambiando, in particolare le primavere, soprattutto in certe parti di Europa, arrivano in maniera anticipata, e agli uccelli converrebbe tracciare, come diciamo noi, questi cambiamenti climatici anticipando la data del loro arrivo dalla migrazione in Europa. Purtroppo però noi osserviamo che le popolazioni di questi uccelli hanno una bassa variabilità genetica a questi geni che apparentemente controllano i tempi della loro migrazione, e questo significa che probabilmente questi uccelli in futuro, le popolazioni nella loro interezza intendo dire, subiranno un mismatch temporale, quindi una asincronia temporale che farà sì che arriveranno troppo tardi rispetto al momento migliore per arrivare e riprodursi in Europa. Detta così sembra catastrofica. Cioè, vuol dire che diminuisce proprio la specie, no? Cioè. Sì, probabilmente io il tono era catastrofico, l'esito non sarà necessariamente così catastrofico, ma tendenzialmente questo è quello che potrebbe accadere, e cioè che la bassa variabilità genetica non consentirà a questi uccelli di adattarsi in termini di specie, e quindi soprattutto gli individui che sono attrezzati per arrivare più tardi la pagheranno in qualche modo e saranno controselezionati, quindi certo, pagheranno un costo. Lei poco fa diceva, anche parlando di noi umani, alcuni che apprezzano, no? Giustamente alcuni, perché certo in Svezia da quelle parti si vedono un futuro mediterraneo, no? Mentre invece probabilmente proprio dal sud Italia, ecco, lì cominceranno delle migrazioni, un futuro desertico. Però certo anche in quei posti dove ci sono temperature molto più elevate, già i migratori arrivano, no, anche dal nord Europa, potrebbero non partire nemmeno. O fermarsi prima. Dunque, sì, chiaramente il problema dei cambiamenti climatici e della traslazione, diciamo così, latitudinale delle fasce bioclimatiche è un problema molto, molto complesso e articolato. Sicuramente in Italia stiamo subendo un processo di desertificazione in certe regioni. Dal punto di vista dei migratori, per tornare a loro, poverini, il grosso problema è questo ampliamento, se non altro ad impulsi temporali del Sahara. Dobbiamo pensare che fino a poche migliaia di anni fa il Sahara in realtà non è ciò che noi conosciamo foresta. Adesso, ma era una regione tutto sommato relativamente ospitale, che ammetteva per questi uccelli di fare soste per rifocillarsi. C'erano oasi, era più alberato ed era, diciamo, in senso relativo più umida. Adesso invece il Sahara è quello che conosciamo e che percepiamo, e per questi uccelli l'ampliamento progressivo del Sahara diventa un problema sempre più grave, perché attraversarlo spesso con un unico volo diventa un'impresa sempre più difficile. Certo. Professore, siamo anche un po' curiosi di sapere il metodo che avete utilizzato per raggiungere questi risultati. Vi siete appostati da qualche parte per raccogliere, insomma, il materiale genetico di questi usignoli e stiaccini all'arrivo, alla partenza? Come avete fatto? Guardi, questa è una delle parti belle, che sono molte del nostro mestiere, però bisogna riconoscere il merito a decine o centinaia di persone che ogni anno concorrono a queste attività su base strettamente amatoriale, concorrono a queste attività di studio della migrazione. In particolare, da anni viene condotto sotto il coordinamento dell'ISPRA uno studio che riguarda l'analisi del fenomeno della migrazione nelle isole, nelle cosiddette piccole isole del Mediterraneo. Quindi si tratta, vengono istituite delle stazioni di cattura e inanellamento degli uccelli per lo studio della migrazione, e noi ci siamo appoggiati a una di queste stazioni per campionare un certo numero di specie durante la migrazione. Tutto questo si svolge ovviamente in un ambiente molto gradevole. Nel caso in quale isola vi è toccato andare, professore? Ci è toccato soffrire sull'isola di Ventotene, che è certo. Una piccola isola a largo, perché è piuttosto distante dalla costa, diciamo all'altezza. Ma scusi, il campione di Ventotene può tranquillamente essere significativo delle migrazioni in generale? Ovviamente questo è uno, è chiaro che questi studi, anche perché poi di recente in Italia non è che siano queste ricerche di base, anche se hanno dei riscontri applicativi, non sono ben finanziate, questi studi hanno un problema di scala. Noi siamo nella condizione di dover assumere che ciò che osserviamo in un'isola rifletta anche ciò che accade in altre isole. Certo, come d'altra parte accade in ogni ricerca, si tratta di fare una prima osservazione e poi di validare l'osservazione anche in altri contesti, in altre condizioni. Quindi siete in partenza per un'altra isola, ci vuol dire questo? Io in questo momento non personalmente, ma alcuni dei collaboratori del nostro gruppo sono in partenza a giorni per l'isola di Ventotene nuovamente. Bene. Per approfondire e ampliare lo studio. In realtà questi geni, se potesse interessare questo gene CLOC, è stato dimostrato essere implicato anche nel controllo di altre attività, in particolare nelle rondini, che si svolgono con cadenza annuale, per esempio la riproduzione. Quindi questo gene CLOC, del quale abbiamo parlato sino ad ora, è un orologio che apparentemente controlla non solo i tempi tutte della migrazione, tutte le attività praticamente. Controlla non solo i tempi della migrazione, ma anche i tempi di altre attività che in qualche modo sono concatenate alla migrazione nel ciclo circannuale di vita di una specie. Qui dovete imparare a cinguettare in stiaccinese per dire a questi ragazzi quando è il momento di andare e di non fare errori, perché qui guardi, il scenario è questo. Chiederò a qualcuno dei miei collaboratori di attrezzarsi, io non mi sento portato. Non si sente pronto a cinguettare. Va bene, grazie professore, buona ricerca. Grazie a voi. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Va bene, ma dirlo adesso è facile. Come facevi a saperlo all'inizio? Certe cose le capisci dopo. Sì, le capisci soltanto dopo, con l'andare del tempo, sì, con l'andare dei milioni di anni. Fai esperienze, il problema è che non puoi ricominciare. Non possiamo tornare indietro, questo è un po' il problema. Quante volte abbiamo detto al corpo umano, questa macchina perfetta? Mm. Col cavolo! Col cavolo, siamo proprio super imperfetti. Stiamo per parlare di ciò, insieme al nostro amico collega Marco Ferrari. Ciao Marco, bentornato. Ciao a tutti. Ciao Marco, giornalista di Focus, giornalista di scienza. Che ci racconta sempre un sacco di belle cose. E nel prossimo numero di Focus, quello che andrà in edicola proprio la settimana prossima, tu scrivi un articolo che si chiama Come siamo imperfetti. Allora, partiamo da un presupposto. Se ci fosse stato un ingegnere che ci avesse progettato ex novo, sì, di sicuro ci avrebbe fatto un poco più efficienti e un poco più perfetti, perché in realtà siamo una cozzaglia di residui di altre specie. Qualcosa di buono c'è, però comunque sì, hai ragione. Beh, ora adesso stiamo esagerando. Marco, il problema è proprio questo. C'è un famoso studioso francese che parlava dell'evoluzione come un bricoleur, cioè qualcuno che va in cantina, usa quello che ha e cerca di costruire quello che riesce, fondamentalmente. Mette insieme pezzi antichi. Mm. Noi abbiamo alle nostre spalle, come specie, come tutte le altre specie, una storia di almeno 3,8 miliardi di anni, esagerando un po', probabilmente. Sì. E quindi abbiamo dovuto fare con quello che avevamo. Tutta la nostra evoluzione ha fatto sì che nel nostro corpo adesso ci siano ancora tutti i residui di quando eravamo pesci, di quando eravamo vermi, di quando eravamo rettili, eccetera. Abbiamo dei retaggi di anfibi, dei retaggi rettiliani e così via. E questi fanno sì che molti pezzi non siano perfetti. Quello che dovrebbero essere, certo. Partiamo dalla testa, cosa dici? Nell'articolo fai un viaggio lungo il corpo umano, quindi seguiamo il tuo schema e partiamo dagli occhi. Sì, gli occhi sono, secondo tutta la retorica, uno degli strumenti migliori, insomma, del nostro corpo. Il problema è che, a parte il fatto che spesso e volentieri si diventa miopi o presbiti o astigmatici o quello che si vuole, spesso e volentieri possono capitare dei danni che ad altri mai non capitano, ad esempio il distacco della retina. Mm. Questo perché? Perché le cellule sensibili alla luce, coni e bastoncelli che ci hanno insegnato gli elementari, non sono rivolti verso la pupilla, ma verso l'interno, per una strana costruzione per cui quando esce il nervo ottico esce dal cervello ed entra nell'occhio, rivolge le cellule verso l'interno. Mm. Essendo rivolte verso l'interno, possono staccarsi rapidamente perché non sono attaccate alla perfezione. Quindi un colpo in testa ci può causare distacco della retina. Tu dici un bel errore di design questo. Certo, se avessimo avuto un occhio della canocchia di mare oppure del polpo, questo non sarebbe successo. Infatti il polpo con gli occhiali noi non l'abbiamo mai visto. Non esiste, infatti. Ecco. Il polpo ha lo stesso occhio fatto come noi, cioè con un bulbo, diciamo così. Così, però le cellule sono rivolte verso la luce, verso la pupilla. La canocchia di mare è un progetto totalmente diverso, ma è così perfetto e incredibile che qualcuno dubita che sia stato causato dall'evoluzione e che sia un progetto alieno, perché vede in 12 colori, vede la luce polarizzata, vede la luce ultravioletta. È una specie di animale straordinario che ha ancora bisogno di essere studiato molto. Ma come facciamo a saperlo? Qualcuno? Sarà possibile. Hanno fatto un'intervista. Hanno parlato con le canocchie? Sì, sì. Perché sì, la canocchia parla, e questo anche oltretutto. Ha un linguaggio suo, però quando specialmente sulla tavola parla molto spesso dicendo non mangiatemi, perché è un animale che viene spesso utilizzato. È perfetto e noi ce lo mangiamo. Esattamente. Scendiamo giù? Ecco, poi scendiamo in gola, Marco. Il fatto che noi ogni tanto ci ingozziamo oppure il boccone ci va di traverso, questo è dovuto al difetto che abbiamo. Succede solo a noi? Succede praticamente solo a noi uomini, perché tutta la nostra struttura che serve per parlare ha dovuto abbassarsi, perché se fosse stata dov'era quando noi eravamo, diciamo, circa 7 milioni di anni fa, quando eravamo ancora a metà strada tra una scimmia antropomorfa e l'uomo, avremmo avuto un linguaggio molto più gutturale, molto meno articolato, diciamo così. Quindi il gioco vale la candela, insomma, si è dovuto un po' abbassare. Ma abbassandosi c'è questo incrocio tra l'aria che entra dal naso, dalla bocca e va nella trachea, che è nella parte anteriore, e il cibo che entra dalla bocca e va nell'esofago, che è nella parte posteriore. Quindi queste due entrate si incrociano. Sono, diciamo, conflittuali. Così. Eh sì, e c'è bisogno dell'epiglottide. Se questa non funziona alla perfezione, abbiamo bisogno di qualcuno che ci aiuti a espellere il cibo con la famosa manovra di Heimlich che si vede in tanti film americani. Ci dà un colpetto. Certo, sì. Se fossimo stati insetti, questo problema non lo avremmo avuto. No, perché loro giustamente hanno tutto un altro sistema per respirare, non hanno i polmoni, non hanno la trachea, eccetera, eccetera, e il cibo gli entra dalla bocca e va nello stomaco senza incrociare niente. Direttamente. Certo. Ecco, esatto. Poi anche questa cosa che camminiamo eretti, noi ne andiamo tanto orgogliosi, ma in realtà ci porta dietro un sacco di svantaggi. Questo rappresenta un'altra delle caratteristiche dell'evoluzione, che si chiama compromesso. In inglese i colti lo chiamano trade-off, cioè il compromesso tra il camminare eretti vuol dire avere le gambe posteriori. Va bene, ma tanto siamo animali. Siamo animali. Sotto il bacino, molto sotto il bacino, in modo da poterle portare avanti quasi alla perfezione. Lo stesso avevano le zampe sotto il bacino, avevano ad esempio quasi tutti i dinosauri, moltissimi dinosauri, diciamo così, infatti erano dei perfetti camminatori corridori. Il bacino stretto però ha delle controindicazioni, cioè il fatto che dal bacino passa il bambino quando nasce. So dove vuoi andare, certo, quello lì ha complicato le cose. Ha complicato molto le cose, perché col bacino stretto il bambino fa molto più fatica, il feto fa molto più fatica a uscire. In effetti il dettato biblico "tu partorirai con dolore" è molto interessante, perché uno dei pochi animali che partorisce con dolore probabilmente è l'uomo. Avendo il bacino molto stretto, appunto, c'è il problema della nascita. Ma scusa Marco, so anche che con la posizione eretta anche la posizione dell'utero è diventata più complicata, mentre invece, ecco, quando noi vediamo quei filmati di giraffe che si mangiano le foglie di un albero e dietro stanno facendo una pupona, è perché in quella posizione l'uscita proprio anche più è molto più fluida. Nel nostro caso è molto più complicata. Gli altri animali non dico che non se ne accorgano, ovviamente, però possono andare avanti e fare quello che vogliono. È molto meno problematica, anche perché contemporaneamente il restringimento del bacino c'è stato un allargamento del cervello, perché noi abbiamo il cervello, rispetto agli altri animali, più grande rispetto al peso, diciamo così. Però anche lì, se il cervello poi cresce a dismisura, siamo sbilanciati, com'è lì la cosa? Esattamente, infatti lo sviluppo del cervello avviene per buona parte fuori dalla pancia della mamma, dopo la nascita. Sì. E anche questo è un compromesso, cioè noi abbiamo bisogno di un tempo di educazione, diciamo così, di allevamento del piccolo, molto superiore a quello degli altri animali, perché appunto il completamento dello sviluppo cerebrale si ha addirittura a 17-18 anni. Certo. Questo potremmo anche vederlo con un vantaggio, no? Siamo più intelligenti, siamo più deboli rispetto alla natura, è per questo che infatti la stiamo cambiando tutta a nostra misura. Questo è un guaio. E poi Marco, andando avanti, tu fai una serie, un elenco di organi, apparati, pezzi proprio del nostro corpo, dei quali potremmo tranquillamente farne a meno. Sì, ce ne sono alcuni di cui potremmo fare a meno, alcuni dicono l'appendice. Molti mettono in dubbio adesso questa teoria, però in effetti dopo l'appendicectomia non è che si muore, si può tranquillamente fare a meno. Ci sono alcune ipotesi che dicono che l'appendice serve come deposito di batteri cattivi o di altre sostanze che possono darci una mano, diciamo così, però alcuni fanno meno anche della milza, fondamentalmente, perché se si rompe la milza si potrebbe toglierla. Sì, ci sono molti pezzi di cui si può fare a meno e altri pezzi che potrebbero essere costruiti meglio. Il più fondamentale è la schiena. La schiena tutta proprio, cioè intendi la colonna vertebrale. Io parlo di schiena perché avendo mal di schiena continuo a pensarci. Non sappiamo cosa fare. Ma perché la schiena troppe vertebre separate, troppi pezzetti separati? Troppo peso. E non solo, ma è costruito in maniera sbagliata, perché se immaginate la colonna vertebrale come un palo verticale, tutti i visceri sono appesi a questo palo verticale, quindi ballonzolano male fondamentalmente. Se invece avete un palo orizzontale, i visceri sono proprio sotto e possono essere, diciamo così, avere una maggior stabilità. Sì. Insomma, nessun altro animale ha un mal di schiena come l'abbiamo noi. Lì dovremmo essere più orizzontali, un po' più tarchiati, più bassi. Con un baricentro un po' spostato, forse verso. Spostato in avanti, proteso. Però a questo punto non avremmo probabilmente la libertà di usare le mani che abbiamo. Però Marco, tu sei anche andato a prendere come la stessa cosa è meglio in un altro animale, cioè hai preso l'occhio migliore, no? Magari per l'insetto, però nessuno è perfetto qua, no? Chiaro, certo. Cioè abbiamo costruito, cioè il progetto era veramente grandioso, cioè prendere il tutte le cose buone. Sarebbe stato davvero intelligente se tutte queste cose buone fossero racchiuse in un unico individuo. In un unico soggetto. In realtà, poi se andiamo a chiedere alla canocchia, ad esempio, quali problemi ha, magari anche lei ha qualche problema di mal di schiena. Tira fuori delle robe. Sicuramente ogni tratto è dovuto a un compromesso tra varie, quelle che si chiamano spinte evolutive. Poi alla storia fondamentale, la storia di ogni specie è fondamentale. Sì. Quello che noi abbiamo alle spalle, cioè anche l'incrocio della gola deriva dal fatto che i pesci avevano una certa struttura nella testa per respirare, quindi avevano le branchie, ovviamente non avevano bisogno di far passare l'aria dal naso, e un'altra struttura per mangiare. Quando sono usciti dall'acqua, allora c'è stato questo incrocio ingegneristico sbagliato. Ecco. Senti, una delle cose più sbagliate dal punto di vista del design, che però non riguarda solo gli umani, è i genitali esterni, i testicoli nel maschio, no? Che però ci sono riguarda anche altre specie, molte altre specie, alcune invece ce l'hanno interni. Sì, questo è un erroraccio, è proprio un erroraccio. È un erroraccio, però è necessario anche questo, perché gli spermatozoi alla temperatura interna del corpo vivono male, probabilmente muoiono, non riescono a svilupparsi completamente. Ma fai degli spermatozoi diversi, no? Fai degli spermatozoi che risolve il problema, certo, è molto facile. Certo. Il problema è che ogni tratto non ha sempre alle spalle una spiegazione precisa. Anche questo lo sappiamo, presente. Bisogna sempre tenere presente che l'evoluzione è un grande processo casuale che mette insieme le cose. C'è dentro anche una tale quantità di variabili che è abbastanza il caso che le dominano. È il caso che le dominano fino a un certo punto, perché il caso è quello che ci dà la possibilità di avere dei nuovi tratti, però c'è sempre quello che si chiama selezione naturale, che è tutto meno che casuale, è estremamente deterministico. Certo. Le caratteristiche che poi le due componenti diventano stabili. Sì. Ecco. Insomma, nessuno è perfetto, però noi siamo contenti di essere così. Ormai è andata. Marco, abbiamo capito che tu avresti preferito essere una canocchia, ma ormai è andata male. Ma guarda, a me, io ho la curiosità di vedere il mondo come lo vede una canocchia, perché 12 colori, la luce ultravioletta, luce polarizzata, tutte queste cose qua, è una cosa che mi sarebbe stato bene. Sarebbe, ma anche solo per pochi minuti. Ti siamo vicini, Marco, ci spiace, è andata così. Va bene, Marco, alla prossima, grazie mille, buon lavoro. Grazie a voi, grazie ciao, a tutti. Ciao. Videocondria, il concorso di Moebius, oggi ha un ospite particolare che è Massimo Cirri. Ciao Massimo. Ciao, buonasera agli ascoltatori. Benvenuto. Noto collega. Grazie. Di Caterpillar e anche esperto di scienza, anche se di mi Radio pare 2. Che esperto di scienza, dicevo, ma mi pare che a te interessa solo il grafene, se non ricordo male. Non ti ha affascinato? Credo di sì, ma non si dovrebbero, non sono cose che si dicono in pubblico. Non sono cose che si dicono in pubblico. Trasmissione di scienza non è carino. Allora, cosa ne pensi di questo nostro concorso, che al di là del concorso concorso è così una specie di chiamata, di call, insomma basta con queste tutte le malattie di routine, il morbillo, la rinite, il tragico la menisco, pertosse. La pertosse, basta, voglio dire, inventiamocene delle nuove e vediamo che siano anche molto più, beh, intanto in quanto nuove sono già più attraenti, no? Mi sembra un'idea bellissima, mi sembra anche, ma sono un amante delle teorie del complotto, che quello che fate voi, per certi versi, se ci pensino, non lo fanno, come dire, anche la grande industria farmaceutica fa questo. Questo non dovresti dirlo, Massimo, però è unificata. È anni che si discute di questa cosa. No? Un tempo i genitori dicevano al figlio, dai, studia medicina, diventi un bravo medico, e troverai la cura per certe malattie che non hanno ancora una cura. Esatto. Adesso mi sembra che, come dire, il mondo della ricerca, delle grandi aziende farmaceutiche, dica al giovane, dai, studia, diventa un bravo medico e trova una nuova malattia, perché noi il farmaco ce l'abbiamo già e bisogna in qualche modo... Esatto. Ecco, e da questa esigenza nasce il nostro contest. Perché almeno allora ti inventi quelle che ti piacciono, no? Assolutamente sì. Spesso stare a allargare altri concetti, ti inventi quelli che ti piacciono. Esatto. Ed è bellissimo. Ad esempio, qui nel nostro mondo della radio, abbiamo fatto qualche esempio settimana scorsa, il nostro tecnico regista era affetto da mixerite, cioè aveva una moltiplicazione degli arti superiori. Assolutamente, la mixerite è anche una malattia mentale che hanno quelli che parlano al microfono e dicono al tecnico che sta al mixer, non va bene, non vanno bene i livelli, alzami un po' i bassi, abbassami un po' gli alti, no? E equilibrizzami. Il tecnico, che è un bravo farmacista, non fa nulla, e l'altro, quelli di noi che soffriamo di mixerite da microfono, diciamo adesso sì che va bene, ma è assolutamente falso. È l'effetto placebo del mondo radiofonico. Ecco, poi dopo avevamo la sindrome del non ascolto, per cui si moltiplicavano le orecchie sulla... Ecco. No, a te non capita, cioè hai la sensazione che non ti sei ascolti. In onda, non stanno registrando, e allora ti metti più cuffie. E forse alla caratura di Massimo Cirri queste cose non succedono. No, lui è convinto. Ma però sulla questione che dici, registrare invece che essere in diretta, che a volte capita per le esigenze tecniche, cosa, a me questa mi è cresciuta questa sindrome, direi sindrome da vita registrata. A volte al mattino mi alzo per una serie di motivi, non c'ho voglia, c'è una caduta del desiderio, delle energie, e mi dico, ma devo proprio viverla questa giornata, non ho una giornata registrata da utilizzare quella, capisci? Confondo e vorrei avere delle giornate registrate da utilizzare. Bella questa malattia. Nel cassetto. Bella, bella. Una giornata sostitutiva. Bella. Assoluto, basterebbe registrare delle proprie giornate, anche che sono vecchie, la rimandi in onda e fingi che sia quella vera. Guarda che questo è un delirio. Noi chiediamo anche a chi vuole partecipare, non in modo obbligatorio, però se gli viene anche di immaginarsi una terapia, ecco, che questo è già più difficile. Poi certo, tu prima dicevi abbiamo già a disposizione un sacco di medicine, ci sono già i bugiardini, basta aggiungere delle cose, no? Ed è fatta. Ragazzi, no, assolutamente non si può illudere la gioventù, le terapie ci sono già tutti, bisogna inventare delle malattie, se no andiamo contro Big Pharma e loro non sono d'accordo. Tra l'altro qui c'è un conflitto di interesse, perché Massimo è anche un esimio psicologo, giusto? Sì, certo. Sì, credo di essere, una delle mie malattie, credo di essere psicologo, ma è... In realtà non è vero, nessuno ha mai visto il tuo pezzo di carta. No, io confermo che tu sei psicologo sul campo. È vero. Ecco, ma appunto, tra le milioni di nevrosi che noi tutti abbiamo, non ti si presenta qualcheduno che di fatto si è inventato una situazione patologica tutta sua? Sì, no, capita, perché poi adesso faccio brevemente un discorso serio, i modi di star male sono moltissimi, per fortuna uno c'ha i suoi e capita. Poi il mondo tecnologico permette anche questo. Qualche tempo fa è venuto a parlare con me di una situazione di mobbing sul lavoro. Il mobbing è il sentirsi, l'essere perseguitato. che aveva un signore ed era una situazione di mobbing classico, c'erano tutte le dinamiche del mobbing e mi spostano una riunione dalle 9 del mattino alle 9 e un quarto perché sanno che così devo prendere il treno prima, metto in difficoltà, era tutto vero, ma questo mobbing avveniva fra un signore che abitava, lavorava nella periferia di Milano e il suo capo, i colleghi che lo mobbizzavano stavano un po' a Bangalore in India e un po' in una società informatica nel Texas, oh, perché lavorava cielo in quel campo. Ed è cos'è? Una malattia nuova, una sofferenza nuova, una declinazione nuova, però giuro che è successo, mobbing a distanza. Poi io gli dicevo, ma ragionando queste sue persecuzioni, si sentiva molto perseguitato, lui diceva, secondo me mi spiano, mi controllano un pezzo della posta privata. Io con tutto il rispetto dicevo, guardi che quando ci si sente sotto pressione non è che si può intuire, pensare che forse siamo noi che un po' ce le immaginiamo. E lui mi ha detto, guardi, la società per la quale io lavoro ha fatto il sistema informatico che usa l'FBI per spiare le telefonate di criminali, a lei non verrebbe il sospetto. Allora, però insomma era anche un po' motivato. Allora era effettivamente motivato. Un'ultima cosa, ogni tanto noi, avendo lanciato questo Videocondria, pensiamo, però insomma certo le malattie sono anche una cosa seria, ma tu come psicologo non pensi in fondo che anche un modo, noi intanto il concorso lo facciamo per queste malattie di routine, sì, poi non vogliamo essere sensibilità di nessuno, non essere irriverenti, però un modo anche per rapportarsi, diciamo, alla non star bene è anche un po' di cercare di ironizzarlo, di esorcizzarlo, si può fare, no? No, credo che si debba fare che qualsiasi malattia, e faccio il secondo discorso serio, poi non ne faccio più, perché sei già al secondo, veramente tanto. È drammatico, è colpa vostra di Radio 24. Va così, no, la nostra sì che è una radio seria. Maledetti. Qualsiasi malattia diventa più grave se uno la vive in solitudine. Sì. Qualsiasi malattia diventa più grave se non c'è la capacità, l'anticorpo, per esempio, dell'ironia. Si può ironizzare, essere autoironici, e io credo che sia un modo per guarire prima, per rimanere uomini nonostante la malattia. Adesso sto andando in dimensione Marzullo, salvato. Però dai, hai colto il significato del nostro contest. Tra l'altro ha detto una cosa molto bella prima, Massimo. Cioè che ovviamente le malattie, come noi siamo abituati a frequentare, diciamo, hanno l'accezione fortemente negativa, però le malattie inventate mica per forza devono avere le accezioni negative. Certo. Anzi, come diceva prima Massimo, il fatto di inventarsi la malattia, dell'avere la giornata di riserva, la giornata del cassetto, questa secondo me è una malattia meravigliosa. Oppure che magari stai un po' male per un po', ma ne esci meglio, no? Cioè... Assolutamente, io per adesso soffro di visioni a distanza, cioè vedo la biancheria intima delle persone con le quali parlo al telefono e vedo questo panga meraviglioso che ha Federico Pedro. E che io posso confermare. Scusa, io non faccio televisione proprio per questo motivo, adesso tu hai rivelato questa cosa. Ti ringrazio per non aver rivelato del mio mutandone di lana. bello, perché è un felpatino di questa stagione. Veramente. Sì, no, non lo toglie mai, neanche a luglio, è un po' un problema. Ciao, abbiamo Massimo fatto questa joint venture. Ciao Massimo, buona radio. Buona radio. Ciao. Pochissimi secondi per ricordare di andare al blog dove ci sono le istruzioni di Videocondria. Certo, mandateci anche voi il video, massimo 90 secondi, e sul sito della radio www.radio24.it trovate il blog in home page. Buona settimana a tutti e a tutte, ciao.